detto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io non ti perderò, io non ti lascerò, per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose, per le strade del mondo. Io ti amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Per cercare nuove avventure, c'è gente che ha avuto mille cose. Della mia gioventù.